Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Lì per lì, quando il fuoco cessò, Robert Jordan non ne fu impressionato. Poi, come il silenzio continuava, cominciò a provare una sensazione di vuoto nel petto. Poi udì scoppiare le granate e per un momento il cuore gli batté più forte. Ma il silenzio ritornò, si prolungò ed egli capì che tutto era finito. Maria arrivò dal campo con un tegame di stagno pieno di lepre in umido, con i funghi nuotanti in una salsa grassa e un sacco col pane, un otre di cuoio pieno di vino, 4 piatti di stagno, 2 tazze e 4 cucchiai. Si fermò accanto alla mitragliatrice e riempì 2 piatti per Agustin e Eladio, che avevano sostituito Anselmo alla mitragliatrice. Tagliò loro il pane e tolse lo zipolo di corno dall'otre e riempì 2 tazze di vino. Robert Jordan la vide arrampicarsi leggera fino al suo posto di osservazione, il sacco in spalla, l'otre in una mano, la testa di ragazzo dorata dal sole. Le corse incontro, le tolse l'otre e l'aiutò a scavalcare l'ultimo masso. «Puoi rimanere qui, guapa, se vuoi», disse egli dopo un poco, quando ebbe finito di mangiare. «No», rispose Maria, «devo tornare da Pilar». «Puoi rimanere qui senza paura, non credo che accadrà più niente ora». «No, devo tornare da Pilar, mi sta dando delle istruzioni». «Che cosa?» «Delle istruzioni». Maria sorrise e lo baciò. «Non hai mai udito parlare di istruzione religiosa?» arrossì. «È qualcosa del genere», arrossì di nuovo, «ma diverso». «Va alla tua istruzione», disse egli battendole sulla testa. Faceva caldo al sole, ma egli non avvertiva il calore e rimaneva seduto osservando i versanti della collina e le lunghe chiazze di alberi di pino che rigavano la parte più alta della china. Passò un'ora e il sole era adesso già molto a sinistra quando egli vide la cavalleria nemica spuntare sul ciglio della collina e prese il binocolo. I cavalli apparvero piccoli e minuti quando i 2 primi cavalieri furono visibili sul lungo versante verde dell'alta collina. Poi ne scorse altri 4 che si sparpagliarono sull'ampia china e infine Robert Jordan vide la doppia colonna d'uomini e cavalli entrare nitidamente nel suo campo visivo. Guardandoli, egli sentiva il sudore scorrergli dalle ascelle giù per i fianchi. Un uomo cavalcava in testa la colonna. Poi venivano altri cavalieri, poi i cavalli senza cavalieri, con i loro fagotti legati alle selle, poi 2 altri cavalieri, poi i feriti su altri cavalli condotti a mano da uomini appiedati. Altra cavalleria chiudeva infine la colonna. Robert Jordan li guardò scendere la china e sparire nel bosco. Da quella distanza non poteva distinguere il carico che portava una sella, un lungo poncio, arrotolato e legato alle 2 estremità e a intervalli gonfio tra ogni legaccio come un baccello pieno di piselli. Il poncio era legato alla sella e fissato alle 2 estremità alle cinghie delle staffe. Lungo il poncio, sopra la sella, era legato arrogantemente il fucile mitragliatore usato da El Sordo. Il tenente Berrendo guardava le ali della sua colonna cavalcare tra gli alberi. Uscì infine dalla foresta sulla strada gialla di La Granja e gli zoccoli del cavallo sollevarono una polvere che si appiccicava ai cavalieri, incipriava i morti legati a faccia in giù sulle selle e i feriti e quelli che camminavano loro dietro erano avvolti in un polverone fitto. Fu lì che Anselmo li vide passare nella polvere, contò i morti e i feriti e riconobbe il fucile mitragliatore di El Sordo. Non sapeva che cosa fosse il fagotto avvolto nel poncio che batteva sui fianchi del cavallo, condotto per la briglia ad ogni oscillazione delle staffe, ma quando diretto al campo giunse al buio sulla collina dove aveva combattuto El Sordo, capì subito quello che conteneva il lungo poncio arrotolato. Nell'oscurità non aveva modo di accertarsi chi giacesse là, sull'alto della collina, ma contò i corpi distesi e poi proseguì attraverso le colline per il campo di Pablo. Alla fine Anselmo non poté fare a meno di pensare al giorno dopo. «E così farò esattamente quello che mi dirà l'inglese. e lo farò nel modo che egli mi dirà. Ma permetti che gli stia vicino, signore, e fa che le sue istruzioni siano esatte, perché non credo che sarei capace di tenere la testa a posto se gli aeroplani ci bombardassero. Aiutami, signore, a comportarmi domani come deve comportarsi un uomo nella sua ultima ora. Aiutami, signore, a capire chiaramente quello che sarà necessario. Aiutami, oh signore, a dominare i movimenti delle mie gambe e non scappare quando verrà il momento brutto. Aiutami, signore, a comportarmi come un uomo domani, il giorno della battaglia. Poiché ora ti ho chiesto questa grazia, te ne prego, concedimela. Sai che non te la chiederei se non fosse una cosa seria, e ti prometto che non ti chiederò mai più niente. Anselmo trovò Robert Jordan seduto al tavolo dentro la caverna con Pablo davanti. In mezzo a loro stava un boccale pieno di vino e ognuno aveva una tazza di vino di fronte a sé sulla tavola. «Vengo di lassù», disse Anselmo. «Pablo ci ha detto tutto», disse Robert Jordan. «C'erano 6 morti sulla collina e quelli avevano portato via le teste», disse Anselmo. «Io ci sono stato al buio». «Che cosa è successo sulla strada, vecchio?» «C'era molto traffico», disse Anselmo. «Ho annotato tutto, come mi hai mostrato tu. Ho lasciato laggiù uno che seguita a segnare ogni cosa per me. Andrò più tardi a prendere il suo rapporto. Hai visto cannoni anticarro, quelli su ruote gommate con le canne lunghe?» «Sì», disse Anselmo. «Sulla strada sono passati 4 autocarri. In ognuno di essi c'era uno di quei cannoni con rami di pino intorno alle canne. Nei camion stavano 6 uomini per ogni cannone». «4 cannoni, hai detto?» chiese Robert Jordan. 4, disse Anselmo. «Dimmi, che cos'altro è passato sulla strada?» Mentre Robert Jordan scriveva, Anselmo gli disse tutto quello che aveva visto passare sulla strada. Gli disse tutto dal principio e ordinatamente, con la prodigiosa memoria degli analfabeti, e per 2 volte, mentre egli parlava, Pablo si versò altro vino dal boccale. «C'era anche la cavalleria che rientrava alla granja dalla montagna, dove ha combattuto il sordo», Anselmo continuò. Poi disse il numero dei feriti che aveva visto e il numero dei morti sulle selle. «C'era su una sella un fagotto che non capivo cosa fosse», disse. «Ma ora so che c'erano dentro le teste», continuò senza fermarsi. «Era uno squadrone di cavalleria». «Mi basta», disse Robert Jordan, affondando la tazza nel boccale. «Chi oltre a te è stato al di là delle linee dalla parte dei repubblicani?» «Andres e Eladio». «Chi è il migliore dei due?» «Andres». Quanto tempo credi che ci metterebbe per arrivare di qui a Navaserrada? Ma senza bagaglio e con le debite precauzioni, 3 ore, se ha fortuna. Noi abbiamo fatto una strada più lunga e più sicura per via del materiale. Ci riuscirebbe certamente? Non se, non c'è niente di certo. Neppure per te? No. Allora è deciso. Questo messaggio deve arrivare assolutamente a destinazione. Se non accade niente, Andres arriverà. Se accade qualche cosa, potrebbe accadere a chiunque. Scriverò un messaggio e lo manderò per suo mezzo, disse Robert Jordan. Gli spiegherò dove può trovare il generale. Sarà allo Stato Maggiore della divisione. Andres non ci capirà niente con queste divisioni, disse Anselmo. Io pure mi sono sempre confuso. Digli solo il nome del generale e dove può trovarlo. Ma il generale è allo Stato Maggiore della divisione. Ma è un posto questo? Certo che è un posto, vecchio. Robert Jordan spiegò pazientemente. Ma è un posto che si sarà scelto il generale. È lì che farà il suo quartier generale per la battaglia. Andres dovrà chiedere del generale e dell'estato maggiore della divisione. Deve consegnare questo al generale o al capo del suo estato maggiore o a un altro di cui gli scriverò il nome. Uno di loro sarà certamente lì, anche se gli altri sono fuori a sorvegliare i preparativi dell'attacco. Mi capisci ora, no? Sì. Allora va a cercare Andres, io intanto scriverò il messaggio e lo sigillerò con questo sigillo. Gli mostrò il piccolo sigillo rotondo di gomma montato in legno con la sigla SIM e il cuscinetto rotondo nella scatola di latta non più grande di un pezzo di 50 centesimi che portava in tasca. Riconosceranno questo sigillo e ora va a chiamare Andres, io gli spiegherò ogni cosa. Deve partire subito, ma prima deve capire. Il posto dove sta questo generale, disse Robert Jordan, sarà certo un posto molto vicino alle linee. Sarà sottoterra per ripararsi dagli aeroplani. Andres lo troverà facilmente domandando, se saprà quello che deve domandare. Basterà che mostri quello che ho scritto, ma ora va a cercarlo perché il messaggio è urgente. Oggi ho ammirato assai il tuo giudizio, inglese, disse Pablo guardando il boccale di vino. Trovo che tu hai molta picardia. Sei più furbo di me, trovo. Ho fiducia in te. Robert Jordan lo udiva appena. Si concentrava sul rapporto a Goltz, sforzandosi di usare il minor numero possibile di parole e di redigerlo tuttavia in modo che fosse assolutamente convincente, cercando di scriverlo in modo che l'ordine di attacco fosse annullato, sicuramente annullato, pur rimanendo persuasi, quelli del comando, che lui, Robert Jordan, non mirava a far annullare l'ordine di attacco per timore dei pericoli della sua missione, ma desiderava soltanto mettere il comando in possesso di tutti i dati di fatto. Thank you. Dunque ora tutto quello che c'era da fare quella sera era stato fatto. Tutti gli ordini erano stati dati. Ognuno sapeva esattamente quello che avrebbe dovuto fare la mattina. Andrés si era messo in cammino ormai da 3 ore. O attaccheranno ora con le prime luci del giorno o non attaccheranno più. «Credo che attaccheranno», pensò Robert Jordan tornando alla caverna dal posto di vedetta in alto dove era andato per parlare a Primitivo. «Golz sferra l'attacco, ma lui non ha il potere di annullare l'ordine. L'autorizzazione di annullamento deve venire da Madrid. Probabilmente non riusciranno a svegliare nessuno lassù. E anche se si svegliano, avranno troppo sonno per riflettere. Avrei dovuto informare Golz già prima dei preparativi che hanno fatto per far fronte all'attacco. Ma come potevo informarlo di una cosa prima che accadesse? Hanno mandato su quella roba solo poco fa all'imbrunire. Non volevano che i nostri apparecchi li avvistassero. Ma che cosa significano tutti quei loro apparecchi? Che diavolo significano tutti quegli apparecchi fascisti? Gli aeroplani avranno certamente allarmato i nostri, ma forse è stata una finta dei fascisti per dissimulare un'altra offensiva a Guadalajara. Gli ordini su questa faccenda sono chiarissimi, troppo chiari. Ma tu non devi preoccuparti né spaventarti, perché se ti concederai il lusso della normale paura, questa tua paura infetterà quelli che devono lavorare con te. Ma la storia delle teste è stata ugualmente forte, disse a se stesso. E il vecchio che li ha trovati sulla collina solo? Ti sarebbe piaciuta una cosa simile? Sì, questa storia ti ha fatto molta impressione, Jordan. Sei rimasto impressionato più di una volta oggi. Ma ti sei comportato bene. Finora ti sei comportato bene. Per un lettore di spagnolo all'Università di Montana, egli scherzò con se stesso, ti stai facendo onore, sì, ti stai facendo molto onore. Non metterti a pensare che sei qualcosa di molto speciale. Non sei poi andato molto avanti nel tuo nuovo mestiere. Non ci occorrono su queste colline tipi pieni di rassegnazione eroica. Tuo nonno combatté 4 anni nella nostra guerra civile e tu stai appena terminando il tuo primo anno in questa guerra. Hai ancora molta strada da fare e il tuo lavoro non lo fai mica male. E ora hai anche Maria. Insomma, non ti manca niente, non dovresti preoccuparti. Che cos'è un piccolo scontro tra una banda di guerriglieros e uno squadrone di cavalleria? Non è proprio niente. E che fa se hanno perso la testa? È molto importante, forse? Niente affatto. Quando il nonno era a Fort Kearney, dopo la guerra, gli indiani non portavano via il cuoio capelluto ai loro prigionieri? Ricordi l'armadietto nell'ufficio di tuo nonno? E le frecce disposte sullo scaffale e i cappucci di guerra appesi al muro? Con le penne d'aquila che ricadevano allargandosi e l'odore di pelle di cervo affumicata, dei gambali e delle giubbe. E ricordi quando passavi le dita sui mocassini ornati di perle, eh? Ricordi il grande arco di bufalo appoggiato in un angolo dell'armadio e i 2 astucci con le frecce da caccia e da guerra e la sensazione che provavi stringendo i mazzi delle frecce, eh? Pensa a cose come queste, pensa a qualche cosa di concreto e di pratico. Ricordati della sciabola del nonno, lucida e ben oliata nel suo fodero spelacchiato, e il nonno ti mostrava come si era assottigliata la lama per essere stata affilata tante volte. Ricorda lo Smith & Wesson del nonno, era un monocolpo da ufficiale calibro 32 e non aveva la sicura. La pistola potevi toglierla dal cassetto e impugnarla. «Maneggialo pure», diceva il nonno, «ma non potevi giocare perché era un'arma seria». Poi, dopo che tuo padre si fu ucciso con quella pistola e tu fosti tornato dal collegio, e dopo che fu fatto il funerale, il giudice istruttore te la restituì a inchiesta finita dicendo «Credo che sarai contento di averla, Bob». Dovrei custodirla io, ma so che tuo padre ci teneva molto perché tuo nonno l'aveva adoperato durante tutta la guerra e poi anche qui, nei primi tempi, quando arrivò la cavalleria, ed era ancora un accidente di buona pistola. L'ho provata oggi, sai. Non ha che un solo colpo, ma colpisce il segno. Lui aveva rimesso la rivoltella al suo posto, nel cassetto dell'armadietto, ma il giorno dopo l'aveva ripresa ed era salito a cavallo in cima all'altopiano sopra Red Lodge con Chubb, fin dove ora avevano fatto la strada per Cookie City, sopra il valico e attraverso l'altipiano del Dente d'Orso, e lassù dove il vento non soffiava molto forte e c'era la neve tutta l'estate sulle colline, si erano fermati in riva al lago, che dicevano profondo 800 piedi ed era di un verde cupo. Chubb teneva i cavalli e lui si era arrampicato su un masso e si era piegato e aveva visto la sua faccia nell'acqua ferma e se stesso con l'arma impugnata, e allora l'aveva buttata giù tenendola per la canna e l'aveva vista affondare facendo bolle finché non era stata più grande di un ciondolo d'orologio in quell'acqua chiara e finalmente era sparita. «Chissà che cosa penserebbe il nonno di questa situazione», pensò Robert Jordan. «Il nonno era stato davvero un soldato in gamba, lo dicevano tutti. Se fosse stato con Custer quel giorno, dicevano, non avrebbe mai permesso che l'abbindolassero in quel modo. Ma come aveva fatto Custer a non vedere il fumo e la polvere di tutte quelle tende giù nella gola lungo il Lit Binghorn? A meno che quella mattina non ci fosse stato un gran nebbione, ma non c'era nebbia». Vorrei che mio nonno fosse qui al mio posto. Beh, forse domani sera ci ritroveremo tutti. Se dovesse esserci una maledetta stupida faccenda come l'aldilà, e sono certo che non c'è, mi farebbe certamente piacere di parlare con lui. C'è una quantità di cose che vorrei sapere. Ora ho il diritto di chiedergliele, perché ho dovuto fare lo stesso genere di cose anch'io. Non credo che ora gli seccherebbe se gliele chiedessi. Prima non avevo il diritto di chiedere, e capisco che non volesse dirmele perché non mi conosceva, ma ora credo che ci intenderemo benissimo. Ora saprei come parlargli e chiedergli consiglio. Accidenti, anche senza chiedergli consiglio sarei felice di parlargli soltanto. È un gran peccato che ci sia un tale salto di tempo fra due uomini come noi. Nel suo baule, a Missoula, aveva una lettera del generale Film Sheridan al vecchio Kilpatrick, l'ammazzacavalli, dove era detto che suo nonno era stato un comandante della cavalleria irregolare, più bravo di John Mosby. «Dovrei parlare a Golds di mio nonno», pensò. «Certo, non ne avrà mai sentito parlare. Probabilmente non avrà sentito parlare nemmeno di John Mosby». Kharkov ha detto che dopo questa guerra, se volevo, avrei potuto andare all'istituto Lenin di Mosca. Ha detto che potevo entrare all'accademia militare dell'Armata Rossa, se volevo. Ah, chissà che cosa ne penserebbe il nonno che non si è mai seduto scientemente a un tavolo insieme a un democratico. Beh, io non voglio fare il soldato, pensò. Lo so. Questo è escluso, dunque. Voglio solo che vinciamo questa guerra. I soldati veramente bravi, secondo me, sanno fare pochissime altre cose. Ma no, no, non è vero. Guarda Napoleone e Wellington. Sei molto stupido stasera. È molto meglio che non pensi affatto, disse a se stesso. Presto sarai con Maria e non dovrai pensare. Questa è la soluzione migliore, ora che tutto è stato elaborato. Quando uno si è concentrato così intensamente su una cosa, non può smettere e il cervello si mette a girare come un volano che ha perduto il peso. Fai meglio a non pensare. Ma supponiamo, egli pensò, che quando gli aeroplani sganceranno le bombe, distruggano quei cannoni anticarro e martellino le posizioni nemiche, e che per una volta i vecchi carri armati si arrampichino su tutte le alture, e che il vecchio Golds spinga davanti a calci quella banda di ubriaconi, clochard, vagabondi, fanatici e eroi che formano la 14ª brigata francese, io so quello che valgono gli uomini di Durand nell'altra brigata di Golds. Ebbene, allora, domani sera saremo a Siviglia. Sì, supponi pure, disse a se stesso. Mi contenterei di La Granja, ma tu dovrai far saltare quel ponte. Non avrai controordini, perché per un minuto tu hai visto le possibilità dell'attacco come le vedono quelli che l'hanno ordinato. Sì, tu dovrai far saltare il ponte, qualunque cosa accada ad Andrés, non importa. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.